Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli. Cari ascoltatori di Radio 24, ancora un buongiorno, un saluto da Gigi Donelli, bentornati dunque al nostro appuntamento con le notizie europee. Subito, vi ricordo, europa@radio24.it per le vostre segnalazioni, per le vostre richieste. Cominciamo allora dalle notizie. La notizia di questa settimana, potremmo dire, è stata quella annunciata mercoledì 13, in via definitiva, lo stanziamento da parte del Parlamento dell'Unione Europea di 1,2 miliardi di euro per 140 comuni delle quattro regioni italiane, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, colpite dai sismi dell'agosto e ottobre 2016 e del gennaio 2017. Per il presidente del Parlamento Tajani è stato un momento di gioia, così dice, è stata una delle cose più importanti, più belle che ho firmate. Naturalmente non mancano molte critiche all'interno del Parlamento Europeo. Vi segnalo quello degli europarlamentari del Movimento 5 Stelle, che dicono: restiamo basite di fronte a affermazioni di politici italiani che considerano un risultato positivo l'attivazione di un fondo di solidarietà che corrisponde a circa il 6% dei danni diretti totali stimati in 21 miliardi. Insomma, posizione diversa. 1 miliardo e 200 milioni ci sono, a noi sembra una buona notizia, ma tant'è, c'è spazio per il dibattito intanto che arrivino. Questa la notizia, naturalmente, in una settimana segnata da quello che è stato il discorso dell'Unione, sull'Unione Europea, del presidente Juncker. Ne abbiamo parlato parecchio, allora io direi di andare subito al nostro sommario dell'agenda della settimana a cura di Chiara Bussi. Dopo la pausa estiva si rimette in moto a pieni giri anche la macchina europea. Le sfide d'autunno sono almeno 10, a partire dalle elezioni tedesche del 24 settembre, che condizioneranno pesantemente l'agenda dei prossimi mesi. Ci sono i negoziati sulla Brexit con il quarto round che inizierà il 18 settembre, dopo il sostanziale nulla di fatto dei tre precedenti. Il 20 novembre i ministri degli esteri europei voteranno poi sulla prossima sede delle due agenzie europee che dovranno traslocare da Londra. L'Italia ha candidato Milano per l'Authority del farmaco ed è pronta a giocare la sua partita. Al di là della Brexit, l'Europa ha cominciato a fare i conti con il suo futuro assetto a 27. Qui le ipotesi sono 5, dal semplice mercato unico fino al sogno di un'integrazione totale. I dossier più spinosi sono quelli legati alla riforma del diritto d'asilo e alla difesa, mentre nella zona euro l'attesa è per l'annuncio di Mario Draghi di ottobre sui tempi e modi di riduzione del quantitative easing, il bazooka che ha consentito l'acquisto di titoli dal marzo 2015. C'è poi il puzzle dell'unione bancaria da completare e la riforma dell'euro governance con l'ipotesi di un super ministro dell'economia della zona euro e di un fondo monetario europeo. E non mancherà il rebus autunno sulla flessibilità dei conti pubblici, particolarmente caro all'Italia. Chiara Bussi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Grazie a Chiara Bussi. Dunque, avete sentito, come sempre, un'agenda ricchissima. Europa, Europa, l'avrete notato, ha un sottotitolo che dice: l'unione utile fa la forza. Ci piace segnalare, ci piace pensare a un sistema che è sociale, ovviamente, che è di altissimi ideali, ma è anche molto pratico. Allora ora vi segnalo un'ipotesi che potrebbe interessare molti studenti neolaureati. Mi riferisco a un tirocinio core.europa.eu/it. Non vi preoccupate, ritrovate tutto sul sito di Radio 24. Mi sto riferendo a un percorso di internazionalizzazione. Che cosa si tratta in sostanza? La possibilità di svolgere ai giovani laureati di svolgere 5 mesi di tirocinio presso gli uffici di Bruxelles. Il 30 settembre, per questo ve lo segnalo, è l'ultimo giorno utile per candidarsi alla sessione primaverile, da febbraio a luglio 2018. È prevista un'indennità mensile pari a 1000 euro. Per candidarsi è necessario compilare online il relativo application form. Ora non ve lo sto a descrivere, ma vi ricordo www.core.europa.eu/it, oppure attraverso Radio 24 ritrovate, naturalmente, come sempre in questa nostra trasmissione, tutti quelli che sono i contenuti utili, magari un po' difficili da memorizzare. E adesso parliamo di un grande tema che riguarda l'Europa, ma che in realtà ne risulta spesso ai margini. Mi riferisco a quanto accade ormai da molti anni, e da 4 anni in maniera particolarmente drammatica in Europa orientale. Il Donbass, dunque, regione separatista, russofona, una protesta che diventa scontro armato e poi guerra. La partecipazione naturalmente degli interessi di una terra di confine tra quello che è il mondo russo, di fatto, e il mondo occidentale, il mondo dell'Unione, il mondo della NATO. Insomma, moltissime tensioni. Davvero 4 anni drammatici senza spiragli di nessun tipo. Ora forse ce n'è uno. Che cosa è accaduto? In sostanza, Kiev ha chiesto il rafforzamento della presenza internazionale, in realtà lo fa già da un po', ma forse la novità è che questa idea di avere una presenza di caschi blu dell'ONU per la prima volta viene sottoscritta dal presidente russo Vladimir Putin. Ancora l'altro ieri Putin ha ribadito al collega francese Emmanuel Macron la richiesta di sostenere la proposta di inviare un contingente dell'ONU nel Donbass. Sarebbe una svolta naturalmente che viene giustamente, direi, messa in discussione, messa tra virgolette da molti commentatori questa settimana, ma potrebbe essere un primo passo. Dovete anche considerare che storicamente l'Ucraina considera, diciamo, la ribellione nell'est una pratica terroristica e come tale si oppone militarmente ma anche ideologicamente a questa questione. Ora, il fatto di mettere in campo e in ballo i caschi blu significa evidentemente un cambio di prospettiva. Ne abbiamo parlato e lo sentiamo tra un istante con l'ambasciatore dell'Ucraina in Italia, l'ambasciatore Perelygin. Soprattutto vorrei sottolineare che nostra posizione di invitare il caschi blu a queste regioni di Donbass per rafforzare il funzionamento di accordi di Minsk. Questa non è alternativa, è un meccanismo, un strumento aggiunto che può rafforzare, di mantenere la pace. L'obiettivo di accordi di Minsk era trovare la pace e mantenere. Per mantenere la pace, la presenza di una missione militare di caschi blu di organizzazione Nazioni Unite è molto molto importante. E per questo nostro presidente Poroshenko dell'Ucraina, lui va a presentare la prossima settimana a New York la posizione di Ucraina. Ucraina ha chiesto il coinvolgimento di ONU tante volte, adesso i leader di altri paesi parlano di questa possibilità e per questo io credo in questa prospettiva con sostegno di leader di paesi occidentali. Ambasciatore, è finito il tempo in cui, visto da Kiev, la crisi nel Donbass era solo terrorismo e visto da Mosca era una faccenda in cui appunto la Russia non era implicata? Nostra posizione è mantenere la pace e per questo oggi il mondo internazionale ha una missione di OSCE. Questa missione di OSCE solo possono notare che c'è una violenza della pace dalla parte dei separatisti e dei mercenari. Ma mantenere, guardare la pace, bisognerebbe un'altra missione e per questo la nostra posizione è missione di ONU, è una scelta giusta. Insomma, mi rendo conto che per chi magari non segue regolarmente queste questioni siano margini di grande ambiguità. In realtà è un passo avanti da seguire, naturalmente è tutto da costruire per una parte d'Europa ormai in conflitto da troppo tempo. E adesso a cose più serene, anche se appunto non meno importanti. Sono quasi 9 milioni gli studenti che sono tornati sui banchi di scuola. Tra le novità più importanti in Italia ci sono le superiori di 4 anziché di 5 anni, una sperimentazione su scala nazionale annunciata ora ma che partirà nel 2018-2019 per 100 classi di 100 scuole in tutta Italia. La nostra Silvia Bernardi fa un po' il punto di quella che è la situazione nel resto d'Europa. La sentiamo. È suonata la campanella per quasi 9 milioni di studenti che sono tornati sui banchi di scuola. Tra le novità più importanti in Italia possiamo dire che ci sono le superiori di 4 anni anziché 5. Una sperimentazione su scala nazionale annunciata ora ma che partirà nell'anno scolastico 2018-2019 per 100 classi di 100 scuole in tutta Italia. Alla fine della sperimentazione, se l'esito sarà positivo, Ministero dell'Istruzione e Scuole decideranno se renderlo effettivo e strutturale. Gli anni delle elementari e delle medie comunque non si toccano, ma si potrebbe partire per l'Erasmus già in terza media. Andiamo a vedere però brevemente come sono le scuole nel resto d'Europa e lo facciamo con qualche numero. 3, ad esempio, è il numero di ore settimanali che gli studenti finlandesi passano sui libri. In molti paesi del nord Europa le scuole non assegnano compiti a casa e il rendimento degli studenti sembra così essere più alto rispetto ai coetanei italiani, che dedicano ai compiti circa 9 ore la settimana. 13 sono le settimane di vacanza estiva per gli studenti italiani e 200 i giorni di scuola in Danimarca e Olanda, ma tutti i paesi membri dell'Unione Europea devono passare a scuola più o meno lo stesso numero di giorni. E terminiamo con un dato che riguarda l'ansia. Per l'OCSE, il 70% degli studenti italiani si sentono in ansia quando devono affrontare un test scolastico, anche se sono ben preparati, contro una media europea del 56%. Allora, la scuola è appena iniziata e da qui ai prossimi test c'è tutto il tempo per lavorare su un approccio più sereno. E allora buona scuola a tutti anche da parte nostra. Adesso aggiornamenti per chi è in viaggio, poi torniamo per la seconda parte. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta... Europa, Europa. Europa, Europa, l'unione utile fa la forza. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli al microfono, da Filippo Aureggi in regia, naturalmente dalla redazione di Radio 24, da tutti i colleghi che come sentite contribuiscono, costruiscono questo nostro magazine del fine settimana che parla dell'Europa, diciamo, del primo piano, nel senso dei grandi titoli, le questioni come la Brexit, di cui parliamo tra un istante, ma anche, ci terrebbe molto a farlo con la vostra partecipazione, anche attraverso la mail europa@radio24.it e naturalmente i social, dicevo, ma anche dell'Europa utile, ed è moltissima, non è solamente Erasmus. Ci torneremo, ma dicevamo Brexit. Dunque, questa è stata la settimana del discorso dello Stato dell'Unione di Juncker, e Juncker non si è fatto mancare una comunicazione al Regno Unito. In estrema sintesi ha detto: vedrete, saranno loro a sentire, come dire, la sofferenza, l'errore di questa uscita. Theresa May risponde alle dichiarazioni del Presidente della Commissione ribadendo che la Gran Bretagna vuole ottenere le migliori opportunità dalla Brexit. La Premier conservatrice ha sottolineato tramite il suo portavoce che Londra si impegna per arrivare ad un ambizioso accordo commerciale con l'UE. Tutto questo all'interno anche di alcuni segnali di difficoltà interni che ci racconta da Londra Leonardo Maisano. La Brexit avanza e paradossalmente indietreggia allo stesso tempo. Il sì di Westminster al primo atto parlamentare che cancellerà lo European Act, incorporando la legislazione comunitaria nel complesso normativo britannico, è maturato fra scetticismi e minacciate ribellioni. Ma è passato. L'iter è ancora lungo, ma questa prima tappa è significativa, anche perché è maturata mentre cresce il timore di rallentamenti economici a fronte di un'inflazione che avanza e di salari che non aumentano, scenario cupo, il più cupo per un'economia come quella britannica che si regge sui consumi interni. Una congiuntura che crediamo sia la vera ragione della cautela di laburisti e sindacati, sempre più schierati a favore di una Brexit molto molto dolce. L'ipotesi di una futura adesione del Regno al mercato interno e all'unione doganale cresce oltre ogni previsione, le unions sono favorevoli e la prima linea del Labour anche. Uno scenario che fa della Brexit una prospettiva più lontana, ma soprattutto molto più incerta. E adesso torniamo a parlare di soldi che sono pubblici, che sono soldi che noi paghiamo con le tasse e che l'Unione Europea di fatto mette a disposizione nei vari modi appunto delle comunità. In questo caso è Interreg, cooperazione transfrontaliera, ma poiché è questione anche di cooperazione interregionale, di fatto riguarda tutti quelli che sono in grado di chiederli nelle modalità, con i bandi, insomma con la complessità burocratica, sì, senz'altro, burocratica che l'Unione purtroppo si porta dietro. E quindi questo servizio che ci riporta la voce di Chiara Bussi ci ricorda anche di quanto le amministrazioni pubbliche, ma anche le PMI, debbano stare attenti per poter sfruttare queste possibilità. Lo sentiamo. Che cosa hanno in comune la provincia di Venezia, quella di Lecce e la croata Karlovac? Sono tutte e tre potenziali beneficiarie del programma di cooperazione transfrontaliero Italia-Croazia, riservato a 25 province italiane di 7 regioni e 8 contee croate. Ma c'è anche il programma COTRA, che coinvolge i territori di Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria e quelli francesi confinanti, dalle Alpi Marittime all'Alta Savoia. Aree diverse, ma unite da sfide e obiettivi comuni. In tutto sono 107 i programmi della cosiddetta cooperazione territoriale europea. Fanno parte della grande famiglia che in gergo comunitario si chiama Interreg, declinata in cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. Possono contare su circa 10 miliardi, pari al 2,8% della dotazione complessiva per la politica di coesione. A differenza degli altri fondi europei, la loro gestione, così come i progetti presentati, devono avere un carattere transfrontaliero, transnazionale o transregionale. A farne richiesta possono essere, a seconda dei casi, amministrazioni pubbliche, agenzie di sviluppo regionale, PMI e grandi imprese, camere di commercio o organizzazioni non governative. L'Italia è coinvolta in 19 programmi, per un totale di quasi 3 miliardi, destinati a un gioco di squadra con territori di altri paesi, dall'Austria a Malta, passando per il centro Europa fino alla Tunisia. Un terzo delle risorse disponibili dovrà essere speso per interventi a favore dell'ambiente, senza dimenticare la ricerca e l'innovazione, l'economia a basse emissioni di carbonio, i trasporti e l'inclusione sociale. Questi programmi senza barriere, che contribuiscono a ridurre la disparità tra le regioni europee, verranno celebrati il 21 settembre, in occasione della Giornata Europea della Cooperazione. Chiaro, dunque, ci sono molti soldi, 3 miliardi, sono orientati a dei programmi che sono obiettivamente complessi, ma che sono assolutamente praticabili, all'interno del quale ormai le pubbliche amministrazioni devono avere delle professionalità in questo senso. E dall'altra parte ci sono i nostri studenti, visto che comincia la scuola, di tutti i livelli, che devono cominciare a studiare delle possibilità di lavoro. Allora, sempre in tema verde, se vogliamo, di trasformazione della società, si apre oggi la settimana europea della mobilità. Il tema scelto per il 2017 è la mobilità pulita, condivisa, intelligente. Nella guida alle migliori pratiche europee pubblicata per l'occasione c'è un'esperienza unica italiana, o meglio un'unica esperienza italiana, quella della tangenziale dei bambini di Casalmaggiore, provincia di Cremona. Laura Bettini ha intervistato Giancarlo Simoni del comitato Slow Town che l'ha ideata. La tangenziale dei bambini è un percorso sicuro che si dipana su 2 chilometri dell'argine maestro, dedicato proprio ai bambini sui percorsi casa scuola e scuola centro storico. In pratica abbiamo creato un percorso sicuro dove non passano le auto e dove i bambini possono camminare o andare in bicicletta in tutta sicurezza e tranquillità. Ci sono 9 uscite, ad ogni uscita di questa tangenziale che è all'altezza di scalinato oppure discesa dell'argine maestro del fiume, c'è l'indicazione di quanti metri e minuti occorrono per andare alla scuola piuttosto che alla palestra, al museo o altri luoghi di interesse sempre dei bambini e dei ragazzi. Questo l'abbiamo fatto utilizzando un cartello che si chiama Metro Minuto. Poi in città si trovano degli altri cartelli che si chiamano Metro Bottega, e dove abbiamo lì coinvolto tutte le botteghe del centro di Casalmaggiore, i genitori con i bambini possono poi recarsi a fare acquisti per la famiglia. Tutto questo ha un costo? Sì, ha un costo non eccessivo, noi abbiamo speso circa 7-8 mila euro, quindi non... Poi adesso l'intenzione è quella di, uscendo nelle varie uscite, di mettere in sicurezza i vari percorsi, e lì è chiaro che bisognerà sistemare gli incroci, quindi certo ogni incrocio avrà un costo di 5, 6, 7 mila euro. Però sicuramente è un costo inferiore rispetto ai costi dell'utilizzo dell'automobile e della manutenzione del manto stradale se si continua a utilizzare l'auto anche per fare pochi chilometri. Bravi allora gli amici di Casal Maggiore, buon lavoro, continuate così, grazie a Laura Bettini. Adesso da questi temi, se vogliamo un po' più soft, ma importantissimi perché riguardano ovviamente la mobilità, i bambini, eccetera, eccetera, al hard, anche un po' i tecnicismi di dazi, tassi doganali, temi che sono difficili, che però ricadono direttamente sui prezzi finali che paghiamo. Dunque parliamo di antidumping con Laura Cavestri. Tutto rinviato al 2 ottobre. Ancora un nulla di fatto lunedì scorso tra Commissione, Parlamento europeo e Consiglio sul nuovo regolamento europeo antidumping. Dovrebbe riscrivere i criteri in base ai quali ricalcolare i dazi, cioè le tasse doganali imposte su beni importati in Europa da paesi terzi a prezzi troppo bassi, talvolta anche al di sotto dei costi di produzione e che colpiscono proprio la manifattura e le imprese europee. La nuova proposta della Commissione nasce dall'esigenza di allinearsi alle regole dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio, se alla Cina verrà riconosciuto lo status di economia di mercato. Richiesta quest'ultima avanzata da Pechino sulla base del protocollo di adesione, ma che non convince né Europa né Stati Uniti. Questi ultimi dicono no secco allo status. L'Europa, come sempre composta da paesi manifatturieri e paesi importatori di merci cinesi, è divisa. Nel nuovo regolamento alcuni paesi, capofila l'Italia, vedono un indebolimento degli strumenti e di fatto maggiori costi e difficoltà nel dimostrare pratiche scorrette da parte di concorrenti terzi. Secondo le imprese, la nuova disciplina annacqua il concetto di prezzi minimi e sposta l'onere della prova del dumping dalle imprese estere, come avviene oggi, ai produttori europei. Il Parlamento europeo ha votato alcune correzioni al testo della Commissione, che però non vuole cedere. Un braccio di ferro che continua e una partita politica, mentre l'industria europea attende di capire se avrà strumenti più o meno efficaci e più o meno costosi per difendersi dalla concorrenza sleale. Laura Cavestri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Grazie anche a Laura Cavestri, da Filippo Aureggi in regia, da Gigi Donelli al microfono, dalla redazione di Radio 24. Grazie a voi per essere stati con noi. europa@radio24.it per entrare in contatto. L'appuntamento è per la prossima settimana. Buon fine settimana a tutti voi.